Mi dica la verità, questa cosa di Pisapia, della chiusura con la cosiddetta area C, è meglio della cosa della Moratti? L'Ecopass l'ho sempre osteggiato perché Dunque, è meglio era, l'area C dell'Ecopass? diciamo che è concettualmente più, Intelligente. sì, diciamo di sì, perché riguarda la È una cosa chiara, è congestione, una cosa che chiara. è un argomento che è, diciamo, gestibile con un intervento di Sì. carattere fiscale, cioè facendo pagare un certo comportamento che si vuole dissuadere e Sì. favorendo, un altro, quello dell'uso del mezzo pubblico che si vuole incentivare. Però è sbagliato sotto due profili. Il primo è Perché? che, come per la sosta a pagamento, i residenti nel quartiere non pagano per mettere l'auto davanti a casa, mi sembra sballato che i cittadini milanesi paghino per circolare nella loro città. Quindi Cioè i residenti, lei applicherei dice? i residenti, ma non solo quelli nella cerchia dei bastioni, i cittadini milanesi che hanno l'auto immatricolata nel comune di Milano. Eh beh, quello è il Ed è criterio. appunto è sbagliato, cioè come la sosta a Beh, in se pagamento. inquinano, pagano. Ma non c'entra l'inquinamento, è una congestion. Fortunatamente il criterio appropriato, come a Londra, non è l'inquinamento. Hanno fatto un ibrido, ma per l'eredità della situazione precedente. Sì. Si può dissuadere l'uso dell'auto perché ingombra, perché c'è un. E allora, seguendo questo criterio, invece che applicare una congestion charge, come viene Che cosa chiamata, devono fare? dovrebbero, come nelle nostre intenzioni originarie, quando abbiamo Sì. organizzato il sistema che adesso è in Sì. funzione, quello per cui si possono, diciamo, computerizzare i Sì. varchi e tenere sotto controllo gli accessi, fare pagare in relazione alla domanda, cioè un road pricing, dare un valore di mercato alle strade. Faccio un esempio: ci sono momenti in cui le auto sono più numerose dello spazio delle strade e le ore di E lì si punta paga di e più. si paga. Momenti in cui sono vuote e non si Non si paga. paga. Vabbè, Come in qualsiasi altra situazione, la domanda e l'offerta questa è condizionano il la valore del terza via bene. di Albertini. No, Fatto è la sta terza che. via, è la via che Vabbè, si comunque. Però il titolo dovrebbe è Meglio applicare. Pisapia della Moratti. Su No, questo non non c'è su dubbio. questo, Su, non su, facciamo su. Vabbè, giudizi questo lei sulle ha detto. No, persone non né sulle sulla persone. linea No, politica. persone. No, ho studiato Ah, a legge proposito, giuridiche, no, guardi. concede parum, nega sepe, distingue sempre. Voi mi fate dire una cosa che non ho Questo è detto. No, latino. meglio Non l'area C faccio. della cosa, però. Meglio il provvedimento congestion charge Che sarebbe l'area piuttosto C. che Della Ecopass, puttanata dell'Ecopass, anche così, perché no? l'Ecopass lo sanno coloro che hanno Sì. letto lo studio.